Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati e la vicenda ucraina ancora tiene banco a Bruxelles. Il referendum convocato dai separatisti nell'est aggraverebbe ulteriormente la situazione, ammonisce Bruxelles dopo l'annuncio della decisione delle regioni filorusse di procedere con la consultazione popolare malgrado l'appello al rinvio di Vladimir Putin. I referendum proposti dai separatisti non hanno alcuna legittimità democratica, possono solo peggiorare la situazione e non si devono tenere né l'11 maggio né mai, ha detto la portavoce di Catherine Ashton. Oggi a Bruxelles intanto l'incontro dei ministri del commercio, sul tavolo anche l'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti. Si scrive TTIP, si legge accordo di libero scambio tra Europa e Stati Uniti, un'intesa a cui si lavora da mesi, avversata non da pochi, soprattutto da coloro che ritengono che sia esclusivo vantaggio di banche multinazionali e che difficilmente troverà soluzione prima delle elezioni europee, ma che di certo ha assunto un significato diverso da quando la crisi ucraina è degenerata. Secondo i dati del CEPR di Londra, commissionati da Bruxelles, l'accordo porterebbe un aumento del reddito disponibile di 545 euro l'anno per ogni famiglia europea. L'Unione guadagnerebbe 119 miliardi di euro l'anno a regime e gli Stati Uniti 95. Come? Non tanto abbattendo le tasse doganali, già basse, quanto mandando giù le barriere non tariffarie, taglio delle spese burocratiche e adeguamento di standard diversi. Le esportazioni farebbero un salto di qualità, più 28% quelle europee oltre oceano. L'Italia potrebbe vedere riconosciuti gli oltre 750 marchi di indicazione geografica in cui il nostro paese è leader, combattendo così i cloni americani. Accordarsi però vorrebbe anche dire capitolare su alcuni temi della sicurezza alimentare, a partire dagli OGM. Una partita da giocare con i guanti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il presidente della Commissione europea Barroso questa mattina ha tenuto un discorso alla Humboldt University di Berlino. I have been actively involved in the process of European integration over the last 30 years. Lavoro da 30 anni all'integrazione europea, non solo da presidente della Commissione, ma anche da ministro degli esteri e primo ministro del mio paese, il Portogallo, ha detto Barroso, lo sentite. Gli ultimi 10 anni sono stati segnati da obiettivi davvero importanti in merito all'allargamento, ma anche da una crisi senza precedenti. Questo, ha concluso, è il momento di pensare e di decidere del futuro del nostro continente. Continente che non ha certo aria pulita, non c'è aria pulita in Europa, i dati Eurostat confermano l'allarme dell'OMS. È la Germania il primo inquinatore d'Europa per emissioni di anidride carbonica. Nel 2013 ha prodotto 760 milioni di CO2 con un aumento del 2% rispetto al 2012, mentre in tutta l'Unione Europea si registrava un calo del 2,5%. A dirlo è l'Eurostat, l'ufficio statistico europeo, che piazza al quarto posto l'Italia con una produzione di biossido di carbonio pari a 342 milioni di tonnellate, il 6,6% in meno rispetto al 2012. Dopo la Germania, altri due grandi inquinatori sono il Regno Unito e la Francia, mentre dal quinto al settimo posto ci sono Polonia, grande utilizzatrice di carbone, seguita da Spagna e Olanda. L'Eurostat ha certificato che in tutta Europa le emissioni di anidride carbonica costituiscono l'80% del totale delle emissioni a effetto serra, un quadro preoccupante a cui si sommano i dati diffusi parallelamente dall'Organizzazione Mondiale della Salute sulla qualità dell'aria urbana. Su un campione di 1600 città analizzate in 91 paesi, solo il 12% delle persone respira aria pulita. Ad aprile scorso l'OMS aveva rilevato che solo nel 2012 circa 3,7 milioni di persone al di sotto dei 60 anni è deceduto perché affetto da tumori, malattie cardiache e ictus. Tra i fattori di rischio ci sono soprattutto la dipendenza dai combustibili fossili come le centrali elettriche a carbone, ma anche la dipendenza dalle automobili e l'uso inefficiente delle energie rinnovabili. Marisa Labanca, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ancora un saluto da Anna Migliorati. Come sempre, l'Europa vi aspetta questa sera a Effetto Notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.